Storie italiane. Il vicino invidioso. C'era una volta, nel piccolo villaggio di Greymont, una coppia di anziani, Richard e Marie. Richard e Marie non avevano figli, ma avevano un cagnolino carino chiamato Romeo. Romeo, vieni qui, ragazzo, la pappa è pronta. Romeo era molto affezionato alla coppia di anziani e non si allontanava mai da loro. È un batuffolo di gioia, non è vero? Sì, lo è. Un giorno, in cui Richard stava lavorando nel suo giardino, con Romeo come al solito, notò qualcosa di insolito lì vicino. Romeo stava annusando e graffiando in un punto poco più in là. Cos'è, ragazzo? Immediatamente, Romeo corse verso il suo padrone, abbaiando rumorosamente, e di nuovo al punto in cui stava grattando. Richard si chiese quale potesse essere il problema e, prendendo la vanga, seguì dove portava il cane. Romeo saltellò in giro, abbaiò rumorosamente, finché il forte rumore fece uscire fuori anche Marie. Curioso, Richard iniziò a scavare e molto presto la vanga colpì qualcosa. Oh mio Dio, sembra che abbiamo trovato qualcosa. Si chinò e tirò fuori una grande scatola. Quando l'aprì, rimase a bocca aperta. La scatola era piena di brillanti pepite d'oro. Mio Dio, sto sognando? Non so tu, ma io sicuramente non sto sognando. Questo è reale. Il nostro bambino qui ci ha portato fortuna. Siamo ricchi. Romeo abbaiò e saltò di gioia. La scatola era così pesante che Marie dovette aiutarlo a trasportarla all'interno. Passarono i giorni e a Romeo furono dati tutti i suoi cibi preferiti e i cuscini su cui riposava erano adatti ad un principe. Tutto andava benone, ma non durò per sempre. Ruso, il vicino invidioso, scoprì della fortuna trovata da Richard e Marie ed escogitò un piano per rapire Romeo. Ho bisogno di questo cagnolino assolutamente. Stasera, quando la vecchia coppia dorme, attirerò il cagnolino con i biscotti e lo catturerò. E proprio come aveva pianificato, Russo si intrafolò nella casa della vecchia coppia di notte. Richard e Marie dormivano profondamente e il piccolo Romeo stava giocando con una palla quando la porta si aprì. Romeo alzò lo sguardo e vide un delizioso biscotto vicino alla porta. Saltò su e corse verso la porta. Immediatamente afferrò il biscotto con la bocca e lo sgranocchiò felicemente. Ma il poverino non sapeva che il biscotto conteneva una pozione per dormire. Non appena lo mangiò, cadde a terra svenuto. Il cane è mio ora. Detto questo, prese il piccolo Romeo e scomparve nell'oscurità della notte. La mattina dopo, quando Richard e Marie si svegliarono, scoprirono che Romeo non era da nessuna parte in casa. Iniziarono a cercarlo. Oh, Romeo! Romeo! Dove sei, ragazzo? Dove sei, mio piccolo batuffolo di gioia? Ma Romeo non si trovava da nessuna parte. Mentre erano in giardino a cercarlo, Russo, dall'altro lato della recinzione, urlò. Cos'è successo vicino di casa? Perché hai un'aria così triste? Russo, non riusciamo a trovare il nostro cagnolino. L'hai visto? Oh, niente affatto. Ma sono sicuro che deve essere scappato di casa inseguendo una farfalla, con cui lo vedo spesso giocare. Oh, non deve essere andato troppo lontano, Richard. Andiamo subito a prenderlo. Hai ragione, andiamo a cercarlo. Richard e Marie uscirono per cercarlo. Considerando questo il momento opportuno, Russo entrò rapidamente nella sua casa e ne uscì con Romeo. Piccolo diavolo, mi hai disturbato tutta la notte. Ora sii un po' utile, aiutami a trovare dei tesori nel mio giardino. Mise giù Romeo, ma lo tenne al guinzaglio. Non osare pensare di scappare? Il povero Romeo iniziò ad annusare il terreno e presto si fermò in un punto e iniziò ad abbaiare. Ah, bravo ragazzo, spero che il tuo tesoro sia più ricco di quello di Richard. Detto questo, iniziò a scavare e presto trovò una grande scatola. Felicissimo, la tirò fuori e l'aprì e con grande felicità scoprì che era piena di monete d'oro. Tu, cagnolino, sei speciale. Ti lascerò andare ora. Gli tolse il guinzaglio dal collo e lo mise dall'altra parte del recinto. Corri dentro ora, tua mamma e tuo papà saranno presto a casa. Romeo corse subito dentro casa. Russo prese la scatola d'oro e sorridendo entrò in casa sua. Quando Richard e Marie tornarono, tristi e abbattuti, Romeo uscì abbaiando e corse verso di loro. Oh, sei qui! È qui! Dove eri andato, Romeo? Eravamo così preoccupati per te! Marie lo prese tra le sue braccia e la coppia di anziani entrò felicemente in casa. Più tardi quel giorno, Russo, pieno di avidità, andò di nuovo a casa della vecchia coppia. Sono contento che voi abbiate ritrovato il cane. Il ragazzo sembra un po' scosso. Vi spiace se lo porto a fare una passeggiata? Oh, sarebbe meraviglioso! Romeo, vuoi andare a fare una passeggiata, ragazzo? E a questo punto, Romeo si fece avanti e, con sorpresa di Russo, parlò. Non vado da nessuna parte con quell'uomo! Lui è cattivo! Russo era scioccato. Fece un passo indietro e guardò Richard. Qual è il problema, Russo? Perché sembri inorridito? E il tuo cane sa papà parlare? Richard e Marie si guardarono divertiti, perché per loro Romeo stava solo abbaiando. Non potevano sentirlo parlare. Cosa? Di cosa stai parlando? Il tuo cane, questo diavoletto, ha appena parlato. Se con parlare intendi abbaiare, allora sì, lo ha fatto. Lo fanno tutti i cani. Romeo abbaiò e Russo lo guardò con curiosità. Giuro di averlo sentito parlare. Vai a casa, Russo. Penso che tu sia un po' stanchino. Fai un pisolino e quando ti sentirai un po' meglio potrai portare Romeo a fare una passeggiata. Russo annuì e si grattò la testa e poi tornò a casa. La mattina dopo andò di nuovo. Saluti, Richard e Marie. Mi scuso per il mio comportamento di ieri. Dov'è il piccoletto? Lasciatemi fare una passeggiata. Oh, certo! Sono felice che tu ti senta meglio. Romeo, vieni qui, ragazzo. Romeo entrò di corsa nella stanza e si fermò vicino a Richard. Oh, quest'uomo crudele! Non di nuovo! A questo punto, la mascella di Russo cadde. Cos'è successo, Russo? Cos'è successo? Il tuo cane ha appena parlato di nuovo? Richard e Marie si guardarono confusi. Romeo abbaiò. Russo, mio caro vicino di casa, penso che tu debba andare dal dottore. Come può un animale parlare? Ha appena parlato. State cercando di ingannarmi. Questo è un cane magico, lo so. È responsabile di tutta la vostra fortuna. E ora che può anche parlare. Dove avete preso questo cane magico? Voglio saperlo! Russo? È solo un cagnolino! Non è una creatura magica? Eh sì, ci ha aiutato a trovare il tesoro, ma è stata solo fortuna! Non l'ha mai più fatto! L'intero villaggio lo sa! Oh, è lì che ti sbagli! Che vuoi dire? Te lo mostrerò! Ma non mentre sono solo. Porterò con me il capo del villaggio e vi mostrerò tutto di fronte a lui. L'intero villaggio saprà che siete maghi malvagi che praticano la stregoneria in questo villaggio. E io stesso mi terrò il vostro cane. Tornerò! Mentre usciva da casa loro, Richard e Marie si guardarono scioccati, perché pensavano che il loro vicino stesse perdendo la testa. Più tardi quel giorno tornò a casa con il capo del villaggio, Shiro. In piedi nella loro veranda, Russo urlò. Venite fuori, maghi malvagi, e portate anche quel cane malvagio. Sono qui per parlarvi di fronte al signor Ciro. Russo urlò così forte che anche alcuni altri abitanti del villaggio si radunarono mentre Richard e Marie uscivano di casa. Eccoli, i maghi malvagi. Praticano la magia nel nostro villaggio, signore. Devi buttarli fuori di qui immediatamente. Signor Ciro, penso che Russo stia perdendo la testa. Dovremmo davvero portarlo da un dottore. Basta così, ti farò vedere. Russo, è meglio che tu abbia delle prove di ciò che stai dicendo. Conosco Richard e Marie da anni e sono le persone più rispettabili di tutto il nostro villaggio. Rispettabile è solo quel che ci hanno fatto credere, signore. E sì, ho le prove concrete. Detto questo, si rivolse a Romeo. Di qualcosa adesso, ti sfido! Cosa vuoi che dica? Vedi? Ecco qua! Devo provare qualcos'altro? Il signor Ciro lo guardò confuso. Anche gli abitanti del villaggio si scambiarono sguardi confusi tra di loro. Di cosa stai parlando, Russo? Il cane? Sta parlando del cane parlante. L'hai sentito parlare proprio ora, vero? L'ho sentito solo abbaiare. Cosa? Non è possibile! Furioso, si voltò verso gli abitanti del villaggio. Lo avete sentito parlare, giusto? L'ho solo sentito abbaiare. Sì, anch'io! Penso che Richard abbia ragione. Russo ha perso la testa. No, non è vero! Questo cane li ha aiutati a trovare un tesoro. È un cane magico. Lo sappiamo tutti. Ma quella è stata solo una coincidenza insieme al potente olfatto del cane. Oh, è così? Detto questo, Russo raccontò di come aveva rapito Romeo e di come questo gli avesse fatto trovare una scatola piena d'oro nel suo giardino. Cosa? Hai rapito il mio ragazzo? Sei stato tu? È inaccettabile, Russo. Farò buttare fuori dal villaggio. Oh, non ancora, signor sindaco. Vedi, il punto non è che ho rapito il piccolo diavolo, ma che mi ha aiutato a trovare un altro tesoro. Vedi, il cane è un essere magico. Può trovare tesori illimitati. Dimostralo. Mostraci la scatola piena d'oro. Oh, sì, lo farò. Detto questo, vuotò la sua borsa e ne tirò fuori la scatola che aveva trovato nel suo giardino. Osservate tutti attentamente perché sto per rivelare una scatola piena di monete d'oro. Così aprì la scatola e con grande orrore vide che era solo piena di sabbia. Cosa? Questo è impossibile. Basta! Non solo ci hai fatto sprecare tutto questo tempo, hai anche messo a repentaglio la reputazione di Richard e Marie. E per di più, hai rapito il loro cagnolino? Con la presente dichiaro che sei bandito da Greymonta e che non metterai mai più piede in questo villaggio. Ma... Non ho parole di più dalla tua bocca. Fai le valigie e parti subito, altrimenti sarò costretto a chiamare le guardie del villaggio. Con la testa bassa, Russo si allontanò. Il signor Ciro andò da Richard e Marie. Mi dispiace per questo comportamento inaccettabile, ma non preoccupatevi più, perché Russo non disturberà mai più voi o nessuno in questo villaggio. Farò in modo che venga mandato molto, molto lontano. Grazie, signor Ciro. La tua guida è ciò che ci tiene tutti al sicuro. Il signor Ciro sorrise e si chinò per accarezzare Romeo sulla sua testa. Un cane così adorabile. Come qualcuno sulla terra può pensare che sia magico? Russo venne mandato via dal villaggio e Romeo visse felicemente con Richard e Marie, assicurandosi che niente di male gli accadesse. E per quanto riguarda la coppia di anziani, non scoprirono mai che il loro cane era speciale.